Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. È l'ultimo lunedì di Salva Danaio in diretta prima delle vacanze e siamo ritornati dopo la pausa di lunedì scorso a presentare le guide pratiche del Sole 24 Ore. Oggi il tema è il contenzioso fra fisco e contribuente. Chissà quanti di voi sarà capitato di contestare una cartella esattoriale, un atto di accertamento dell'amministrazione fiscale che non comprendiamo. Un'altra situazione tipica è quella del rifiuto esplicito molto più spesso tacito da parte del fisco di restituirci tributi che magari abbiamo versato in misura superiore a quanto dovuto. Allora, oggi il Sole tocca tutti questi punti, approfondisce il tema dei diritti del contribuente e mette nuovamente a disposizione una rosa di esperti che possono rispondere alle vostre domande che potete inviare collegandovi al sito del Sole 24 Ore. Vi do l'indirizzo come sempre: www.ilsole24ore.com/fisco /contribuenti, e naturalmente le risposte le comincerete a trovare da domani sulle Sole 24 Ore. Anche in questo caso la task force di esperti è piuttosto nutrita. Potete scegliere come argomenti per i vostri quesiti l'autotutela, ravvedimento e interpello, l'accertamento con adesione, contenzioso tributario. Insomma, per qualcuno magari potranno essere termini incomprensibili, per altri invece un po' meno. In ogni caso, il tema del conflitto, del contenzioso con il fisco, è il tema che abbiamo scelto anche noi questa mattina a Salva Danaio, sul quale potete interpellarci all'800 24 00 24 per porci le vostre domande intervenendo in diretta, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666. E due degli esperti che il Sole 24 Ore mette oggi a disposizione del giornale, naturalmente li abbiamo anche rubati per Salva Danaio, io li saluto. Sono due esperti di questioni fiscali per il Sole 24 Ore. Saluto e ringrazio il dottor Antonio Iorio. Buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno. Buongiorno anche a Giovanni Valcarenghi, benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, io ho ricordato i numeri per intervenire, naturalmente, e non ho ricordato peraltro una cosa importante, che è anzi centrale per il nostro dibattito di questa mattina. Il tema che oggi la guida sviluppa fondamentalmente è il compleanno, i 10 anni di vita dello Statuto del Contribuente, questo documento che è stato varato, è stato prodotto dalla nostra legislazione nel 2000 e che tutela il contribuente attraverso principi di garanzia, trasparenza ed imparzialità amministrativa. In sostanza stabilisce come anche la comunicazione fiscale deve penetrare tra la platea dei contribuenti e quali sono tutti i provvedimenti, in sostanza i procedimenti che un contribuente può seguire per, come dire, attivare e far valere i propri diritti nei confronti del fisco. Allora noi vi spiegheremo che cosa prevede questo statuto, come è stato utilizzato anche in questi 10 anni e come si fa ad attivare un contenzioso con il fisco, sperando naturalmente che non ce ne sia mai bisogno, perché in realtà poi i miei ospiti so che faranno numerose precisazioni su questo argomento. Prima di parlare di contenzioso si deve parlare di contraddittorio con il fisco. C'è tutta una serie di regole che possono essere fatte valere per dialogare con l'amministrazione fiscale. Allora noi ci faremo spiegare tutto quello che bisogna fare. Prima di partire con la nostra chiacchierata con Giovanni Valcarenghi e Antonio Iorio, la borsa, qualche anticipazione come sempre l'abbiamo data nel giornale radio oggi. Mercato che era partito piuttosto bene, brindando ai risultati degli stress test condotti su 91 banche europee, i cui risultati sono stati comunicati venerdì a mercati chiusi. Si è parlato, come sapete, era su tutte le pagine dei giornali in questi giorni, di 7 banche sostanzialmente bocciate, e quindi gran parte delle banche europee hanno avuto la promozione dai regolatori europei rispetto a questi test, fra cui anche tutte le banche italiane. E però stamattina il Financial Times avanza qualche perplessità relativamente alle modalità con cui le banche tedesche hanno comunicato i propri bilanci, i propri dati, le esposizioni per esempio in debiti sovrani. E quindi rispetto a queste perplessità stamattina il mercato un po' più guardingo, e quindi c'è un po' di turbolenza sugli indici che sono partiti bene, come vi dicevo, adesso invece spingono verso il basso. Parigi meno 0,05, Francoforte meno 0,30, Londra meno 0,11, Milano un po' più pesante, perde lo 0,38%, anche se i titoli bancari resistono, ma non tutti. Intesa e il Banco Popolare guadagnano 1,5%, l'Automatica più 0,6, i Italcementi più 0,08%, i cali più forti stamattina sono su Fiat, che perde oltre 1,5%, ha avuto una riduzione di giudizio dagli analisti di Credit Suisse. STM perde l'1,40, UbiBanca meno 1,38, Fondiaria meno 1,35, Telecom meno 1,19, abbiamo un ribasso di 1 punto per Parmalat, per Bulgari, per Azimut meno 0,9%, per Enel. Pirelli oggi raggruppa le azioni nel rapporto di una nuova azione ordinaria ogni 11 detenute. Il titolo perdeva stamattina più di tutti gli altri, adesso recupera ed è in calo dello 0,46%. Comunicati i dati di Terna, il mercato mi sembra reagisca in maniera abbastanza neutrale, il titolo in calo dello 0,32%, stasera mercati chiusi avremo i risultati di Luxottica e il rapporto euro-dollaro è a 1,28,94. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, sentiamo un po' cosa dobbiamo fare quando litighiamo con il fisco. L'amministrazione finanziaria svolge una continua attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti, dichiarazioni dei redditi, IVA, di successione, eccetera, e sugli altri versamenti di imposta che vengono effettuati direttamente dal contribuente senza necessità di compilare una dichiarazione, come accade ad esempio per l'imposta di registro, l'imposta di bollo, le tasse auto. E se a volte è il contribuente che sbaglia, per esempio, nella compilazione, può naturalmente accadere che sia il fisco a commettere un errore. Cosa fare dunque in caso di illegittima pretesa fiscale? Dopo aver effettuato tutte le verifiche, in mancanza di un accordo o compromesso, è possibile fare ricorso contro il fisco per chiedere l'annullamento totale o parziale dell'atto notificato dal fisco. Il contenzioso tributario, che deve essere presentato alle commissioni tributarie, è uno strumento di tutela del contribuente. Tuttavia, occorre valutare caso per caso la sua convenienza. Il contribuente può ottenere l'annullamento totale o parziale dell'atto notificato dal fisco qualora le commissioni ravvisino l'illegittima pretesa fiscale. In alcuni casi è anche possibile sospendere la pretesa fiscale fino al giudizio finale. Il principale svantaggio per il contribuente è l'onere da sostenere in giudizio sotto forma di spese legali, costi aggiuntivi di documentazione, impiego di tempo per svolgere tutte le procedure burocratiche. 800 24 0024 per intervenire a Salvadanaio, per, se volete, commentare l'utilità o meno dello statuto del contribuente, se lo conoscete, se avete mai fatto uso anche dei principi stabiliti da questo documento, o se volete raccontarci di qualche piccola rogna che avete avuto con il fisco, come vi siete mossi per risolverla, che cosa avete fatto, o seppure ancora non sapete che cosa fare. Stamattina due esperti del Sole 24 Ore su questa materia, Antonio Iori e Giovanni Valcarenghi, ai quali voglio subito chiedere un commento su questo decimo compleanno dello Statuto del Contribuente. Stamattina il Sole 24 Ore, più che sulla guida pratica a pagina 5, parla di uno statuto ignorato, tra virgolette, 400 volte nelle norme varate in 10 anni, tante le deroghe ai principi fissati a tutela del contribuente. Iorio, inizio con lei, ma insomma una sola operazione di facciata compiuta dal fisco 10 anni fa o qualcosa di più? Ma sicuramente ci sono luci e ombre, come si diceva sul Sole. Sicuramente per certi aspetti lo statuto è servito, perché obiettivamente ha introdotto una nuova cultura anche nell'amministrazione finanziaria. Altrettanto certamente abbiamo quotidianamente, per chi lavora nel settore, casi di assoluta inadempienza, chiamiamola così. Esatto, chiamiamola con i suoi termini, esatto, non volevo usare i suoi termini, ma è proprio quello tecnico, di inadempienza, perché in realtà ci sono delle norme che obiettivamente vengono rispettate, altre che soprattutto quella sui controlli, che è quella che poi maggiormente impatta con i contribuenti, prevede delle prescrizioni abbastanza stringenti, pur tuttavia poi non ci sono quasi mai delle sanzioni per chi non adempie a quelle prescrizioni, poiché chi non adempie, in questo caso l'amministrazione, di fatto il contribuente, ancorché poi provi a invocare, diciamo, guardi che lo statuto prevede, non so, che se venite a fare un controllo mi dovete dire per quale ragione state venendo, poi in realtà le conseguenze non si vedono, insomma, salvo qualche rara pronuncia di commissione tributaria che dà ragione al contribuente in questi casi. Quindi diciamo sicuramente luci e ombre. Ci sono anche molte altre parti interessanti, come per esempio quella del diritto all'informazione che l'amministrazione finanziaria deve garantire al contribuente relativamente alla circolarità delle informazioni. C'è anche il tema molto importante del diritto alla chiarezza e alla motivazione degli atti. Certo che quando ci arriva una notifica dell'amministrazione fiscale, una cartella esattoriale, prima di capire in che cosa abbiamo sbagliato, a me perlomeno, che mi è capitato un paio di volte per un paio di questioni anche tra l'altro non di grandissimo conto, prima di capire che cosa avessi sbagliato mi ci sono voluti veramente, non dico un bel po' di minuti, ma almeno un paio di giorni. Giovanni Valcarenghi, anche quello del diritto alla chiarezza è un tema sicuramente fondamentale per i contribuenti, ma quando si tratta di dialogare con il fisco non è che il fisco sia proprio campione per sua natura di chiarezza. Sì, certamente dobbiamo anche considerare che ci sono delle esigenze dell'amministrazione finanziaria di standardizzare il più possibile gli atti e quindi di renderli trattabili in modo informatico, e proprio lo statuto, come diceva giustamente l'amico Antonio Iorio, giustamente è un'operazione che punta più sulla cultura che non sulla materialità dei fatti, almeno al punto in cui siamo arrivati. Però delle prescrizioni le contiene, sono davvero importanti, vorrei citarne qualcuna se può servire. Certo. Oltre all'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti che dovrebbe imporre l'amministrazione, in parole povere, di rendere edotto il contribuente al quale si chiede qualche cosa, spiegargli il motivo perché gli si sta richiedendo del denaro oppure gli si sta contestando una violazione. Ci sono altri principi molto importanti, quali ad esempio quello della irretroattività della norma tributaria. Oggi il legislatore non potrebbe introdurre una norma che vada ad intaccare su quello che è il rapporto fiscale che si è completato nelle annualità precedenti, ma ancora il principio di affidamento e buona fede, quindi la buona fede che ci deve essere nel rapporto tra l'amministrazione e il contribuente, penso che siano sicuramente delle norme e dei principi importanti. A certo me piace molto anche, dottor Valcarenghi, il tema del diritto all'integrità patrimoniale, che detta così potrebbe sembrare, come dire, una cosa comprensibile, ma io leggo anche testualmente, perché ho, come dire, la sintesi dello statuto sotto gli occhi, è che quando si accerta in maniera definitiva, in via definitiva, che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata, il fisco è tenuto a rimborsare il costo della fideiussione, leggo, che il contribuente ha dovuto chiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione e il rimborso. Qua è tutto piuttosto complicato, ma in sostanza che cosa vuol dire? Che se il fisco sbaglia deve risarcirci in tempi rapidi, ma come sappiamo bene questo non accade. Sì, all'atto pratico purtroppo insomma, è una delle forme in cui lo statuto non trova applicazione, però il principio mi sembra molto basilare. A seguito di un errore il contribuente ha dovuto sostenere delle spese e queste debbono essere risarcite, ma sempre nel medesimo articolo che citava c'è anche un altro principio molto logico e importante, dice: chiunque deve delle somme al fisco, se si trova ad essere creditore verso il fisco di altre somme può operare una compensazione. Principio basilare che però all'atto pratico non sempre no, è attuato. Perché quando dobbiamo qualcosa al fisco, io so che questa è una banalità, però quando dobbiamo qualcosa al fisco, il fisco mi viene anche stamattina, soldi e dintorni, mi viene a fischio invece di fisco, ci rintraccia rapidamente e chiede che appunto questo nostro impegno venga rispettato nel giro di pochissimo tempo, ci dà delle scadenze sempre molto brevi. Al contrario però, quando noi siamo creditori del fisco, dobbiamo sempre attivarci a fare tutta una serie di dimostrazioni per appunto palesare questa nostra titolarità di questo diritto, e quindi è chiaro che c'è questa simmetria che viene spesso denunciata e di fronte alla quale spesso non sappiamo bene come difenderci. Lo statuto del contribuente, peraltro, Iorio, torno da lei, oltre al diritto di interpello, che adesso spiegheremo che cos'è, e anche a tutti i diritti del contribuente sottoposto a verifica, istituisce anche il garante, la figura del garante del contribuente. Quando si può ricorrere a questa figura? Ma al garante si potrebbe ricorrere, devo dire, secondo le previsioni normative, in quasi tutte le ipotesi in cui il contribuente si ritiene vessato da atteggiamenti del fisco, per cui si potrebbe scrivere al garante se per esempio non si è ottenuto un annullamento in autotutela, come si diceva nella scheda di presentazione, si può ci si può rivolgere al garante se ci si accorge che durante il controllo i funzionari o la guardia dell'agenzia piuttosto che la guardia di finanza non sta rispettando le previsioni dello statuto. Però anche a questo proposito c'è da dire che purtroppo una volta che ci si rivolge al garante non sempre si ha una risposta efficace ed efficiente, soprattutto nel senso che ci sono taluni garanti che obiettivamente ce la mettono tutta per cercare di far imporre determinate regole, e ce ne sono altri che invece sono un po' spuntati con le armi. In realtà questa figura è obiettivamente, andrebbe studiata meglio, andrebbe non solo ridotta a un mero enunciato di principio, no? Cioè, quindi la parola è molto altisonante, il garante evoca altri tipi di garanti che conosciamo in Italia, ma in realtà non ha assolutamente i poteri che c'è un altro garante. Se pensiamo al garante della privacy o piuttosto al garante della concorrenza e del mercato, ma rispetto al garante del contribuente non c'è proprio paragone. Ecco, basti pensare che il garante in realtà nella maggior parte dei casi ha sede in strutture dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero, che per carità è una cosa buona in termini di rispetto dei costi, ma comunque. Però lei dice insomma c'è un piccolo conflitto di interessi. Per questo, insomma, c'è una sorta di diciamo di soggezione logistica, per non dire altro, no? E poi c'ha delle armi spuntate, cioè il garante comunque può fare una lettera, può sollecitare. In realtà, se si volesse far decollare questa figura, bisognerebbe dargli dei poteri un po' più concreti, anche dei poteri istruttori, di supervisione, dovrebbe essere un po' super partes, no? In realtà basta già pensare, non so, alla composizione, dove c'è comunque un membro del garante, almeno uno, e un ex appartenente all'amministrazione finanziaria, e quindi insomma si fa un po' fatica a pensare a un effettivo operatività di questo istituto. Insomma, abbiamo capito che lo statuto del contribuente, pur essendo un documento innovativo, come vi ho già ricordato, introdotto dalla nostra legislazione 10 anni fa, dalla legge 212, sicuramente ancora delle aree di miglioramento molto ampie che attengono proprio anche a tutte queste figure che dovrebbero assistere il contribuente nel momento in cui si scatena un contenzioso con il fisco. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Ci sono già delle domande di alcuni ascoltatori e noi li sentiremo fra un attimo. Saluto Matteo da Milano e Simona da Torino. Però siccome cominceranno a raccontarci entro qualche istante quali sono le disavventure con il fisco nelle quali appunto questi due contribuenti immagino si sono imbattuti, volevo chiedere a Giovanni Valcarenghi se ci può dare una sorta di fotografia rispetto ai casi di conflittualità con il fisco più diffusi fra la platea dei contribuenti. Noi abbiamo ricordato prima appunto quello che ci sembra sicuramente il caso abbastanza, quello che possiamo ritenere maggiormente emblematico, e cioè quando magari abbiamo versato tributi in più e il fisco non ce li riconosce in tempi rapidi, se non addirittura non ci riconosce mai questo diritto appunto a questa restituzione. E poi quali altri, su quali altre problematiche sono più diffuse, Valcarenghi? Dal punto di vista numerico penso che i casi che maggiormente si presentano quotidianamente riguardano l'aspetto della liquidazione delle dichiarazioni, quindi quando l'amministrazione finanziaria provvede sia a verificare la correttezza dei calcoli che sono stati inseriti nel modello unico, oppure in un secondo grado anche la correttezza della documentazione che il contribuente deve possedere per avvalersi ad esempio di deduzioni, di detrazioni, di scomputo, di ritenute. E questo dal punto di vista quantitativo. Dal punto di vista qualitativo, se volessimo andare a vedere sull'ammontare della lite, invece certamente bisogna affacciarsi sul mondo delle imprese e dei lavoratori autonomi, dove la legislazione è sicuramente più complicata, e quindi qui i confronti con l'amministrazione finanziaria riguardano un po' tutti gli aspetti della quantificazione dell'imponibile. Valcarenghi, vi stanno già arrivando delle domande da parte dei lettori del Sole 24 Ore? Ve le stanno già girando, oppure ancora non avete avuto modo questa mattina, attendendo Salvadanaio, di monitorare un po' le questioni poste dai lettori del Sole? Arrivano, ce ne sono già sul forum. Sì, che sì. Cosa c'è di interessante? Ci sono molti quesiti per ora che riguardano l'aspetto del ravvedimento operoso, che è una fase preventiva rispetto al confronto con l'amministrazione finanziaria, la possibilità cioè per il contribuente di correggere un errore che ha compiuto, quindi qui non c'è una discussione col fisco, si riconosce di aver sbagliato e si cerca un rimedio beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Benissimo. Cominciamo a sentire le domande degli ascoltatori, adesso ne sentiamo una, non credo di avere il tempo di riuscire a rispondere, ma intanto incameriamo insomma questa domanda e questo caso del nostro ascoltatore, che è Matteo da Milano, che saluto, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Ci dica. Io ho avuto questa disavventura di questa contestazione che mi è stata fatta per via di parametri, credo, rispetto agli studi di settore. Eccolo, infatti ce lo immaginavamo. Gaia Romani mi diceva, tu vedrai che le domande che arrivano stamattina saranno particolarmente legate alla tematica degli studi di settore, la mia assistente al programma, Matteo. Quindi la contestazione che mi è stata fatta era assolutamente fuori dalla realtà e non rispecchiava quello che era successo in realtà. Ho fatto ricorso che non è andato a buon fine e adesso oramai sono tanti anni che ho questa cartella che ogni tanto mi arriva. E ma lei ha deciso di non pagarla, insomma? No, sì, io ho deciso molto tempo fa di non pagarla, di tenermi questo strascico, però volevo sapere se questo tipo di debito che sia col fisco rispetto a queste cose ha un tempo per quale va in prescrizione. Salva Danaio questa mattina parla delle nostre liti con il fisco. Abbiamo preso a spunto la nuova guida pratica delle Sole 24 Ore, fisco e contribuenti, che soffermandosi anche sul decimo compleanno dello statuto del contribuente cerca un po' di fare chiarezza su tutte le vie che si possono percorrere per litigare o dialogare con il fisco. Peraltro c'è la consueta modalità di interazione anche con il Sole 24 Ore, potete inviare i vostri quesiti collegandovi al sito internet del Sole, entrando nella sezione www.ilsole24ore.com/fisco-contribuenti, inviare i vostri quesiti, naturalmente scegliete anche l'area che vi interessa di più in modo tale che le domande possano essere più facilmente smistate, e ci sono 1, 2, 3, 4, 5 esperti che sono pronti a rispondervi, e le risposte ai vostri quesiti saranno pubblicate a partire da domani sul Sole 24 Ore. Allora, Antonio Iorio, torno da lei, abbiamo sentito il caso del nostro ascoltatore di Matteo da Milano, che è stato oggetto di un accertamento da parte dell'amministrazione fiscale, evidentemente il tema lo abbiamo sentito, quello dello studio di settori. Io ricordo, abbiamo dedicato tante puntate a questo argomento e a questo strumento matematico statistico che individua i cosiddetti indici di congruità per le attività economiche in base alla loro collocazione territoriale, al ciclo anche macroeconomico. In pratica si cerca di stabilire quanto debba incassare un professionista, un artigiano, un commerciante in base alla zona dove esercita la professione e all'andamento dell'economia. E con la crisi in molti, Iorio, non si sono ritrovati nelle caselle del fisco in base, non si sono ritrovati appunto congrui sostanzialmente. Il fisco dice che lo si è sulla base della professione che si esercita, del territorio in cui si abita, ma magari molti professionisti dicono: io ho avuto un tracollo del mio fatturato lo scorso anno, pertanto non ritengo di dover ottemperare a quanto il fisco mi chiede. Matteo dice: questa cartella che mi continua ad arrivare, in sostanza, fino a quanto io mi potrò permettere di far finta di niente? Ma io credo che già per esempio il fatto che arrivi la cartella faccia cadere la cosiddetta prescrizione. La cartella è un brutto segno, perché ripeto, se effettivamente è arrivata la cartella vuol dire che l'accertamento è divenuto definitivo e quindi non si può più impugnare, l'amministrazione è iscritta al ruolo ed Equitalia chiede i soldi sostanzialmente, perché la cartella in termini molto banali vuol dire questo. C'è la prescrizione del codice civile che è decennale, però in onestà. Ma se il fisco non si fa sentire, cioè se io ho un debito con Non ci confiderei, perché Equitalia sappiamo bene che fortunatamente funziona quasi molto bene, e quindi sicuramente, soprattutto se la cifra non è bassa, si farà presto viva con delle azioni esecutive che possono essere il fermo amministrativo, l'ipoteca, e quindi le ganasce fiscali e quant'altro. Però, esatto. Dottor Iorio, ecco, il nostro ascoltatore è talmente incaponito nella scelta della strada da intraprendere, lui dice: io voglio proprio far finta di niente, perché evidentemente ritiene di aver ragione di quello che gli è successo. Allora mi chiedo se ha già perso un ricorso, adesso io non mi ricordo. Devo fare un appello, era meglio se avesse fatto un appello, perché il ricorso se l'ha perso in primo grado, da quello che ho capito, in appello, soprattutto a seguito del fatto che le sezioni unite della Corte di Cassazione ora hanno dato un orientamento abbastanza, diciamo, favorevole al contribuente. solamente sui suoi settori, probabilmente conveniva appellare quella sentenza contraria. Adesso non fa più in tempo a farlo? Adesso, se sono scaduti i termini, e temo che siano scaduti da quello che lui diceva, purtroppo non può più impugnarla, perché lui la cartella la può impugnare per vizi propri della cartella, quindi notifiche, mancanza di responsabile del procedimento, non la può impugnare per il motivo sottostante il credito da cui deriva la cartella, mi spiego, quindi non può andare oggi a dire impugno la cartella perché gli studi di settore non sono corretti, doveva impugnare l'avviso di accertamento. Detto questo, visto che gli sono arrivate già alcune cartelle, se adesso lui si ravvedesse e dice guarda sono stanco, non voglio più vivere con questa pendenza che ho sopra la testa, ma voglio... Conviene fare un'istanza di rateazione. Ecco. Conviene fare un'istanza di rateazione, ci sono determinati indici che Equitalia tiene conto e può chiedere fino a 72 rate per il pagamento di questa cartella. Se invece non paga perché ritiene di essere nulla tenente, quant'altro si deve aspettare obiettivamente che Equitalia faccia giustamente le sue mosse per assicurarsi il credito, insomma. Speriamo che non sia troppo alto, peraltro, Matteo. 800 24 00, perché sennò poi la punizione di Equitalia è un po' più salata. 800 24 00, numero verde al quale potete chiamarci per porre i vostri quesiti ai nostri ospiti di stamattina. Stanno arrivando davvero tantissime chiamate. Sentiamo, è caduta l'ascoltatrice, adesso la recuperiamo perché mi pareva avesse anche una bella domanda. Ma andiamo da Roberto da Parma. Roberto, buongiorno. Buongiorno, che onore parlare, Deborah. Io sono un contribuente che si è accorto a distanza di solamente un anno che il consiglio che mi ha dato il commercialista si è rivelato non utile. Nello specifico io ho un mutuo seconda casa che non era mai stato inserito in dichiarazione. E a distanza di un anno mi sono accorto che l'anno scorso è stato erroneamente inserito su consiglio. Poi purtroppo io non sono andato molto a sondare, a fronte di un consiglio dato al commercialista, io ho detto sì, ok, se si può mettere. Certo. A distanza di un anno mi ha detto che forse questa operazione non è così sicura e mi ha lui chiesto se voglio o no fare questo ravvedimento operoso, sbaglio terminologia? No, allora dunque il tema è, mi scusi, che praticamente le sta pagando un mutuo per aver acquistato la sua seconda casa, quindi praticamente voleva inserire in dichiarazione dei redditi questa spesa che sostiene con i relativi interessi per poter avere detrazioni fiscali sugli interessi. Mi è stata inserita nella scorsa annualità, non in questa. E quindi adesso il commercialista sta... Più di un anno vorrei sapere a cosa vado incontro se volessi ravvedermi. Ma allora, Valcarenghi, intanto si possono ottenere detrazioni sugli interessi passivi del mutuo per una seconda casa? No, evidentemente anche il consiglio tardivo che è arrivato è proprio l'indicazione del fatto che si è usufruito di una detrazione non spettante sul periodo d'imposta 2008, mi sembra di capire. Sì. E allora il meccanismo del ravvedimento, quindi una correzione tardiva del contribuente stesso, ancor prima che arrivi l'amministrazione a contestare la violazione, perché questo è importante, il ravvedimento operoso si può fare prima che il fisco ci contesti l'errore compiuto, sta proprio a significare che quella detrazione l'anno passato non poteva essere goduta. Quindi stiamo già parlando del cosiddetto contraddittorio preventivo, dottor Valcarenghi? Nemmeno il contraddittorio, perché il ravvedimento operoso si fa proprio senza andare a colloquiare con l'amministrazione finanziaria. Non si è nemmeno convocati dall'amministrazione, perché se fossimo convocati lì il ravvedimento operoso sarebbe impossibile, perché è già cominciata un'azione di accertamento da parte dell'amministrazione. Quindi il contribuente, a mio modo di vedere, farà bene a ripresentare la dichiarazione dell'anno passato in modo corretto. Ne uscirà una maggiore imposta da versare, ovviamente, perché lo sconto fruito non era invece spettante, e si dovrà proprio con il ravvedimento provvedere a versare le maggiori imposte e anche delle sanzioni che sono ridotte rispetto a quelle che applicherebbe l'agenzia in caso di controllo. Valcarenghi, che responsabilità ha il commercialista in tutta questa vicenda? Fa una domanda. La metto in difficoltà. No, per carità. Allora, ovviamente, se il commercialista ha curato la predisposizione della dichiarazione, si è dato un consiglio errato nella stesura del modello dell'anno passato, penso che interverrà senza problemi nell'accolarsi le sanzioni che derivano da questo. O quantomeno che gli faccia o uno sconto, magari totale, sulla parcella che percepisce per la sua consulenza. Certo. Abbiamo ripescato Simona da Torino. Simona, buongiorno. Buongiorno. Cosa le è successo? Allora, io l'anno scorso ho pagato una... una cartella di un'imposta per la vendita di un'attività. Sì. Avevo scelto il metodo della tassazione separata. Quest'anno mi è arrivata una cartella, direttamente una cartella, pari al 20% dell'imposta che avevo pagato. E quando sono andata all'ufficio, all'agenzia delle entrate, a chiedere perché, è stato detto perché avevo pagato con 3 giorni di ritardo questa cartella. Quando io avevo ricevuto l'anno scorso la comunicazione che dovevo pagare questa cifra, sulla comunicazione c'era scritto che sarebbe scattata un'imposta pari al 20%, una sanzione, pardon, pari al 20% in caso di omesso o parziale pagamento. Ma non c'era scritto, io non l'ho fatta apposta, è combinazione, la raccomandata, l'ha ritirata qualcun altro, io ho calcolato male i 30 giorni. No, comunque Simone, in sostanza è un errore in buona fede, no? Mi pare di capire. E in ogni caso sul ritardo, lei dice, la cartella non era perfettamente chiara. Allora aspetti lì e vediamo se i nostri consulenti hanno bisogno di ulteriori informazioni da parte sua. Iorio, torno da lei. Sì, allora, non possiamo sgarrare neanche di mezz'ora, però il 20% su tutto l'importo per 3 giorni, santo cielo. Lo so, purtroppo è uno di quei casi in cui bisogna dire che l'amministrazione ha applicato la norma, quindi bisognerebbe discutere sul fatto se sia bello o meno avere una norma che sanziona così pesantemente un ritardo. In realtà io non so se all'ascoltatrice è arrivata una cartella o un avviso di liquidazione o qualcosa. Devo dire che è strano che venga detto che solo in caso di omesso pagamento si applica la sanzione, perché di norma viene precisato che anche il ritardato pagamento è sanzionato. Quindi a questo punto l'unica cosa che si potrebbe tentare di fare, ma temo che si corra il rischio di perdere tempo e soldi, è quello di invocare appunto l'assoluta buona fede e il fatto che ci sia un errore assolutamente scusabile. Però devo dire che raramente, per non dire quasi mai, viene accolta questa tesi dall'ufficio e bisognerebbe ricorrere al giudice, ma devo dire che è molto difficile. Perché? Perché altrimenti, mettiamoci da parte l'amministrazione del giudice, tutti i casi di ritardati pagamenti purtroppo potrebbero essere giustificati con una buona fede, insomma, ecco. Iorio, adesso non sappiamo se questo è il caso di Simona, ma ammettendo che invocando la buona fede Simona possa scoprire di avere il diritto di vedersi di tornare indietro appunto questo 20% in più applicato alla cartella esattoriale, perché ammettiamo di scoprire che Simona abbia pagato nei tempi e quindi in sostanza il fisco le ha fatto una richiesta non pertinente. In che tempo, in quale tempo, in quanto tempo l'amministrazione fiscale restituisce ai contribuenti quanto deve loro, quando magari per una pratica anche molto semplice scopre di aver torto nei confronti del contribuente stesso? Purtroppo non c'è un tempo, bisogna dirlo. Negli ultimi anni, con onestà, l'amministrazione ha fatto dei grossi ma grossi passi in avanti. Ci ricorderemo tutti che fino a qualche anno fa spesso si parlava di anni e anni, no? Il famoso problema dei rimborsi. Oggi purtroppo non c'è una tempistica codificata. Ciò che conviene subito fare è provare ad andare subito dall'ufficio e segnalare che c'è stato un errore, ovvero un doppio pagamento. Fare al più presto l'istanza e poi cominciarla a sollecitare. Non ci sono obiettivamente dei tempi, nessuno può, secondo me, ad oggi garantire che nell'arco di 30, 60, 90 giorni ci siano dei tempi. Teniamo presente che se l'istanza è legittima scattano gli interessi a favore del contribuente. Però insomma, mediamente sono biblici. Certo che via Scribonio Curione ci ha fatto sobbalzare un po' tutti sulla sedia, me, Gaia, Rudy compresi. Allora, le nostre conflittualità con il fisco, come le risolviamo? Potete trovare tante indicazioni utili questa mattina nello speciale del Sole 24 Ore, la guida pratica che ci dà tutte le informazioni che dobbiamo avere relativamente al funzionamento dello Statuto del Contribuente. Ma laddove non interviene lo Statuto del Contribuente, che su certe cose è molto preciso ma su altre è un po' più vago, allora stamattina vi abbiamo messo a disposizione 2 esperti su questi argomenti, loro malgrado, perché magari vorrebbero fare qualcosa che le diverte un po' di più piuttosto che ascoltare le nostre lamentele e le nostre problematiche appunto con l'amministrazione fiscale. Sono 2 esperti di questioni fiscali del Sole 24 Ore, Antonio Iorio e Giovanni Valcarenghi. Allora, eravamo rimasti alle altre domande degli ascoltatori ed è pronto Dino da Roma. Dino. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io sono una ditta individuale, ho ricevuto un accertamento di circa 14.000 euro. Però. Dove ci sono 2 situazioni. Primo, un errore gravissimo, il mio commercialista ha fatto ricorso non a nome suo ma a nome mio, e quindi sembra che l'amministrazione non l'abbia accettato. Mi si contestava il fatto che, essendo io una società di autonoleggio con autista, mi si contestava il fatto che le mie schede carburanti, che sono, diciamo, lo scarico più grande che io posso avere come spesa, non erano firmate dal gestore. Quindi tutti noi sappiamo che se io vado a fare carburante, il gestore non mi mette la firma, mi mette il timbro, ma non mi firma nulla. Mamma mia, ecco. Dino, allora sono delle questioni. Aspetti un po' lì. Allora vado, ero rimasta da Iorio prima, quindi ritorno a Valcarenghi. Intanto, no, non ho capito questa questione del ricorso all'amministrazione fiscale. Non l'ha, mi scusi, Dino, torno un attimo da lei. Ha firmato, il commercialista praticamente ha presentato un ricorso a nome suo e non a nome mio . E non a nome suo come consulente. Ah. Perché è superiore a 2.500 euro. Ah, ecco, questo non lo sapevo, essere... Dino, per questo l'ho fatto fare questa precisazione. Valcarenghi, intanto, questa parte della domanda. Sì, allora lì è un problema che riguarda le norme della procedura, giustamente per la presentazione di un ricorso, tranne per piccole liti valutate. Sì, no, però quello che mi pare sconcertante è che qua non stiamo parlando di un evasore, che è veramente una questione di forma sulla quale non credo non ci si possa mettere d'accordo, però 14.000 euro di accertamento, perché no, non mi dica. Il problema è che se il ricorso è stato male presentato, ipotizziamo così da quanto capiamo dal signor Dino, evidentemente sono scaduti i termini per impugnare l'avviso di accertamento, i fatidici 60 giorni, e di conseguenza si è consolidato quella che è la richiesta del fisco, e questo dal punto di vista della procedura. Per quanto riguarda invece il merito della questione, che però vorrei dire forse oggi non conta più, perché si è consolidata la pretesa del fisco, la tematica delle schede carburanti, la mancata firma, ecco, insomma, sui timbri apposti dal gestore, è una questione che è sorta da una sentenza della Cassazione che aveva appunto contestato questo malo comportamento, diciamo così, degli operatori, perché ricordo c'è un provvedimento che prevede che quando si compila la scheda carburante, sia pure se non è più attuale, per carità, lo possiamo tranquillamente dire, deve essere compilata in ogni sua parte dal gestore, che deve apporre oltre il timbro anche la firma. Quindi che cosa possiamo suggerire al nostro ascoltatore? Allora, intanto, per la prima parte, no, mi stavo chiedendo, possibile che il commercialista anche in questo caso abbia fatto un errore così macroscopico, ma lui non lo sa che per ricorsi di un determinato importo più alti di 2.500 euro, di un valore maggiore rispetto a questa cifra, il ricorso deve essere fatto a suo nome come consulente di tutta l'operazione? No, io faccio proprio una domanda a Valcarenghi, da Alice nel Paese delle Meraviglie, perché poi lo scotto che deve pagare il contribuente è alto, e qua insomma poi passiamo sempre tutti quanti da evasori, no? C'è qualche figura un po' che lavora con leggerezza, mi sembra. Per carità, anche qui torniamo forse al tema di prima, può capitare nell'ambito della professione di sbagliare, se c'è stato un errore da parte sua dovrebbe anche intervenire per coprire quello che sono i danni che possono derivare da questo suo errore, insomma, poi bisognerebbe vedere tutta la documentazione bene cosa è successo. Quantomeno, adesso a questo punto il prossimo step, il prossimo passo che l'ascoltatore potrebbe fare qual è? Sempre un appello rispetto a questa richiesta? No, perché purtroppo lui dovrebbe ricevere, se non l'ha già ricevuta, una cartella esattoriale dove gli si chiede tutto questo importo maggiorato di interessi e di sanzioni, e quindi la cartella, come già si diceva prima, non è impugnabile per le motivazioni contenute nell'avviso di accertamento, ma solo se fosse stata malamente notificata o se fosse carente di qualche elemento. Mamma mia, che sudata che mi state facendo fare questa mattina. Allora, no, anche perché il tema è che anche la persona più corretta, lineare nel comportamento, quella che si fa seguire da tutti quanti i professionisti e magari li paga anche profumatamente proprio per non avere problemi con il fisco, e poi suo malgrado si ritrova a dover pagare, a subire questi accertamenti che sono anche onerosissimi, cioè sono anche 14.000 euro, non è che sono bruscolini, ma anche se ne dovesse pagare solo 50 non sarebbe comunque un accertamento giustificato, e perché magari la persona alla quale ci affidiamo non si è comportata professionalmente in maniera ineccepibile. Poi chiaramente qua dobbiamo anche confidare nella buona fede del commercialista, per carità del cielo, però qualche volta rimaniamo un po' basiti rispetto a questi casi, ripeto, perché se uno facesse il furbo sarebbe una situazione, ma chi invece proprio si affida a un esperto del settore perché non vuole avere problemi e poi si ritrova comunque, rimaniamo sempre un pochino male su questo. Comunque, Andrea da Modena, buongiorno. Buongiorno a tutti, io devo raccontare una storia un po' strana e ingarbugliata. Ma guardi, come tutte quelle che abbiamo sentito, perché anche nella massima semplicità c'è sempre... Mamma mia, io non ci salto più fuori da un mese. Andrea, mi scusi, può spegnere la radio cortesemente? Perché sennò sentiamo un eco che ci sembra di stare in una caverna stamattina. Già fatto. Grazie. Niente, è successo questo. Io un mese fa ho ricevuto... premetto, io abito da Modena dal 2004 ed è una data fondamentale per quello che è successo, perché... Un mese fa mi è arrivata dall'Equitalia di Caserta, dove abitavo prima con i miei, una cartella esattoriale di circa 800 euro per un volo del 98 non pagato, insomma una storia così. Non l'aveva pagato Andrea? No, il volo l'ho pagato, il problema è dal 98 a trovarlo, ho fatto 5 traslochi, quindi... Ah, ecco sì, ok, questa è un'altra allora, volta. Esatto. Allora, niente, io sono andato, ho chiamato all'Equitalia che non mi ha mai risposto. Gli orari dalle 14 alle 16 non sono mai fatti sentire. Comunque, ho commissionato mio padre, che abita a Napoli, andare a sentire qui alla Caserta per cos'è la sua storia. E loro mi hanno detto: guardi, noi abbiamo mandato una raccomandata a vostro figlio nel 2005, lui l'ha ritirata e quindi chiaramente sono scattate poi le more e gli interessi. E mi scusi, ma io non ho mai ricevuto nessuna raccomandata a Modena. No, ma noi l'abbiamo mandata a Caserta. E cosa c'entra Caserta con Modena? Allora mi ha detto: no, la raccomandata è stata ritirata da tuo figlio. Ho detto: mi scusi un attimo, da ma chi? Come posso ritirare una raccomandata a Caserta se abito a Modena? Allora mi ha detto quello dell'Equitalia, dice: guardi, l'unica cosa che può essere successo è che la raccomandata l'abbia anche ritirata il postino stesso. Mi scusi un attimo, ma cosa me ne frega? Cosa me ne frega? Insomma, oggi a che punto è, Andrea? Perché non vorrei togliere anche tempo agli altri ascoltatori. Oggi la situazione qual è? Mano legale per cercare di capire se posso prendere l'archivio da dove ho firmato questa raccomandata. Voglio una prova che io ho firmato la raccomandata, che non è mai giustamente neanche l'avvocato mi sa dare una risposta chiara. Quindi io sono qui in balia, ho pagato perché c'era altrimenti c'era il fermo amministrativo della macchina. Amen, basta, sono messo così. E però insomma lei dice: io non ci sto, ma per quale motivo? Allora ci ha dato però tanti spunti interessanti per affrontare il suo caso e per magari generalizzare, anche magari sono vicende che possono interessare una platea molto numerosa di ascoltatori e di contribuenti. Antonio Iorio, mi ha stupito anche un aspetto che Andrea ha citato raccontandoci la sua storia, cioè lui dice, adesso a parte il fatto che non rispondevano al telefono di Equitalia, ma ammettendo appunto che le linee siano costantemente intasate, ma se io faccio una domanda all'amministrazione fiscale, sulla base anche di quanto stabilisce lo statuto del contribuente, deve sempre rispondermi sì, no, non ci interessa niente quello che stai dicendo, prenderemo in considerazione il tuo caso, qualsiasi cosa, ma c'è un obbligo da parte dell'amministrazione fiscale di rispondere a qualsiasi quesito da parte del contribuente? Beh, in realtà no, in realtà non c'è un obbligo generalizzato di risposta. Diciamo che normalmente la risposta viene data per altri motivi, voglio dire, un problema veramente di rapporti, di buoni rapporti, di educazione, di trasparenza pubblica amministrazione. L'obbligo di risposta dell'amministrazione c'è solo in determinati casi, come prevede lo statuto, e quello a cui lei prima faceva riferimento del diritto di interpello. Nel caso del nostro ascoltatore io farei proprio come stavo dicendo lui, cioè bisogna andare a verificare, quindi o lui direttamente oppure se Equitalia, ma non penso, non gli fa vedere la prova dell'avvenuta notifica, qua dovrà impugnare quella cartella chiedendo, lamentando l'omessa notifica. A questo punto Equitalia, per difendersi, proverà la notifica, ecco. E nel momento in cui proverà la notifica bisognerà eccepire che quella firma sarà scritta a nome di, no, ci sarà un nome che ha lasciato il postino, si dirà che è falso, se è falso è. Il rischio è che purtroppo in certi posti c'è il portiere che ritira, c'è il familiare, il parente, e allora lì normalmente ha ragione Equitalia, per dirla tutta. Se invece, come addirittura si paventava nella telefonata, addirittura è un estraneo, un postino che si prende la si prende la raccomandata, dire qui siamo nell'assoluta indicità. Con che cosa? Ma con un avviso di accertamento, ma lì voglio dire. Spero di escluderlo, ecco, spero che non sia successo questo, perché veramente è una nuova storia che uno impara. Ma veramente questo postino che si va prendendo gli avvisi di accertamento degli altri contribuenti è veramente divertente. E quindi insomma, ecco, Andrea deve, io gli suggerirei, se non ha tanto ormai ha già pagato, Andrea a questo punto si diverta un po', si incaponisca e chieda all'amministrazione finanziaria ad Equitalia di dimostrarle che l'avviso di accertamento è stato regolarmente recapitato nel 2005, che qualcuno ha firmato su questa ricezione appunto di raccomandata. Allora, noi abbiamo terminato al tempo a nostra disposizione. Valcarenghi, non è che l'ho messa in difficoltà prima con la storia dei commercialisti, assolutamente, qui abbiamo parlato ovviamente di casi eccezionali, ci mancherebbe, perché è una categoria di persone che proprio per non trovarsi in queste situazioni è assolutamente scrupolosissima. Valcarenghi. No, assolutamente, ci mancherebbe. Ci sono delle cose... È facile sbagliare, no, c'è anche un perché... una serva di norme. Ma capitare. infatti, guardi, a me basta e avanza tutto quello che devo fare per Salvadanaio, per capire che è un mondo con il quale mi confronto con grande difficoltà. Già conoscere le norme in termini generali è una fatica indicibile, figuriamoci appunto per i professionisti del settore che devono conoscere ogni comma, ogni dettaglio della legislazione per poter servire al meglio la platea dei contribuenti e dei clienti. Allora, per tutto quello che non abbiamo detto, sono sicuramente tante cose sullo statuto del contribuente, su come difenderci se il fisco ci rivolge delle pretese che non vanno bene. Allora, stamattina c'è la guida pratica del Sole 24 Ore, ma la trasmissione è stata talmente vivace che io prometto alla ripresa autunnale di Salvadanaio di rimettere insieme l'accoppiata Giovanni Valcarenghi e Antonio Iorio, stamattina appunto, che sono stati con noi questa mattina, per ritornare su questi argomenti. Grazie ad entrambi, devo salutarvi, buona giornata, a domani.